Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. E allora siamo insieme, 17.09, Focus Economia, un'altra puntata di Focus Economia, diversi temi di questa giornata economico-finanziaria, temi che vanno ad intrecciarsi con la stretta attualità legata all'epidemia Covid. Lo abbiamo sentito anche dal GR delle 17, nuovi dati oggi importanti, 37.978 nuovi contagi, 636 le vittime. Però a fronte tutto questo di un record di tamponi ben 234.000 con un'incidenza dei positivi che risale al 16%. Perché faccio questa premessa? Perché questi numeri ci aiutano a capire quali sono le ricadute su tutto ciò che ci circonda. A partire dai temi economici, questa seconda ondata che sta incidendo fortemente su una ripresa che sembrava esserci, anzi c'è stata nel terzo trimestre, sono i numeri dell'Istat a certificarlo, una ripresa ad oltre 2 punti percentuali, un rimbalzo come viene indicato tecnicamente, rimbalzo del terzo trimestre che inevitabilmente sarà penalizzato da un quarto trimestre con le nuove misure di lockdown progressive in tutto il paese che stanno creando serie difficoltà. Ne parleremo tra breve, ne faremo un nostro approfondimento sia sul fronte europeo, perché vedremo cosa ha detto la Banca Centrale Europea, quale sarà il contributo dell'Istituto di Francoforte per contrastare la recessione economica, e poi lo affronteremo anche sotto l'aspetto della politica economica del governo, perché dopo tanti decreti emergenziali, decreti ribattezzati ristori, il primo, il secondo, forse ne dovrebbe arrivare un terzo, ma è tempo ora, siamo ormai a metà novembre, è tempo di mettere nero su bianco la manovra economica reale, quella che sarà un pochino il biglietto da visita del governo per il prossimo anno. Cercheremo quindi di approfondire questo aspetto, perché l'aspetto che ci interessa maggiormente è immaginare quale sarà il nuovo scostamento di bilancio per far fronte a tutte le misure emergenziali che il governo sta mettendo in campo contro questa seconda ondata. E poi, dicevamo, sempre il Covid sta influenzando tutta la nostra quotidianità, e perché non ricordare allora la scuola? Ne siamo tutti coinvolti come genitori, come operatori, come professionisti che operano nella scuola in tante vesti, però c'è l'incognita di come proseguire quest'anno scolastico, quindi didattica a distanza, didattica in presenza. Però poi, se si vuole fare un minimo di programmazione, vi sono circa 1,5 milioni di famiglie che sta già pensando all'anno scolastico 2021-2022, a come scegliere la scuola superiore. Allora, un'ottima base di riferimento resta il portale Eduscopio della Fondazione Agnelli, che oggi pubblica la classifica degli istituti che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro. Questo, insomma, il nostro menù, se lo vogliamo chiamare così, la nostra scaletta di oggi, uno sguardo rapido, perché poi ne parleremo abbondantemente nel nostro spazio, ai mercati. FTSE MIB Milano che ha chiuso a meno 0,76, velocemente anche uno sguardo agli altri mercati internazionali, partiamo dall'America, Dow Jones meno 0,41, Standard & Poor's 500 meno 0,24, Nasdaq l'unico listino americano in questo momento più 0,21, l'Europa dicevamo del FTSE MIB meno 0,62, Londra meno 0,60, Francoforte Francoforte meno 1,17, poi Parigi meno 1,24, cerco rapidamente anche il dato di Madrid, l'Ibex a meno 0,71, un dato che va sottolineato è quello del rapporto euro-dollaro, in questo momento 1,18155. Questo è insomma il nostro punto di partenza. Ringrazio anticipatamente chi aiuta quotidianamente alla realizzazione di questo programma, e quindi Maria Sole Lisciandro e Danilo Di Trani in assistenza al programma, ed oggi in regia Gianmarco Ferronato a Milano e Alessandro Chiappini qui a Roma. Passiamo velocemente alle nostre notizie in breve. Siamo dall'oro, più 0,74 a 1879,89 dollari l'oncia, il petrolio più 0,31 a 41,59 dollari al barile. La produzione industriale torna a calare, parliamo di quella europea, a settembre è scesa di 0,4% nella zona euro ed è rimasta invariata nell'Europa 27 rispetto al mese precedente, ad agosto invece era salita rispettivamente di più 0,6% e più 0,9%. Una fotografia dell'OCSE sul reddito delle famiglie: il reddito reale delle famiglie è continuato a calare nel secondo trimestre 2020 in Germania, meno 1,2, Francia meno 2,3, Regno Unito meno 3,4 e Italia purtroppo il dato peggiore, meno 7,2%. E per quanto riguarda il nostro paese, dati confortanti sull'asta dei BTP. Il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi di euro di BTP a 3, 7 e 15 anni offerti oggi in asta. Nel dettaglio sono stati assegnati 3 miliardi di titoli triennali con tassi in calo a meno 0,19 da meno 0,14, con una domanda stabile a 1,41 volte l'importo offerto. Il rapporto spread BTP Bund è meno 2,42 a 116,9 punti base. Andiamo velocemente con le notizie in breve. Mi interessa oggi darvi un quadro sostanziale di quanto il governo sta facendo per affrontare questa seconda ondata, e allora andiamo velocemente a quanto detto dal ministro dello sviluppo economico Patuanelli in Senato. Patuanelli ha detto in 12 giorni erogati oltre 1 miliardo di euro. Stiamo parlando del decreto legge ristori. Allora sentiamo questo passaggio. Abbiamo già erogato oltre 1 miliardo soltanto dell'ultima tranche del ristori del decreto 137, che è del 28 ottobre di quest'anno, quindi a distanza di 12 giorni abbiamo erogato oltre 1 miliardo di nuovi contributi a fondo perduto. Il decreto che ha istituito il fondo perduto per la prima volta ha erogato oltre 6 miliardi e mezzo di contributi a fondo perduto per le imprese, anzi 6 miliardi 685 milioni per esattezza, dato all'Agenzia delle Entrate, quindi è inconfutabile. Abbiamo previsto altri 2 miliardi e 2 col decreto ristori e quasi 1 miliardo col decreto ristori 2, ma questo soltanto per affrontare un'emergenza di liquidità immediata della piccola impresa, soprattutto della piccola impresa. Quindi in primo piano, nelle preoccupazioni del governo, la piccola e media impresa, almeno in queste prime battute. Ricordo che per quanto riguarda il decreto legge ristori bis è entrato in vigore e abbiamo sentito comincia a produrre i suoi effetti in combinazione con il primo decreto. E allora il Sole 24 Ore risponde con chiarezza e precisione ai dubbi e alle domande dei tanti interessati con le sintesi del Sole. 4 pagine centrali estraibili in edicola con il quotidiano venerdì, lo ricordo, domani e quindi sabato 14 novembre. Nel primo appuntamento tutte le misure fiscali in vista delle prossime scadenze di pagamento di imposte e contributi. Questo dunque per quanto riguarda il DL Ristori. L'ABI fa sapere che le richieste a fondo di garanzia da parte delle imprese crescono, quindi cresce la crescita dunque dei finanziamenti richiesti dalle banche al fondo di garanzia, che ieri 11 novembre hanno superato i 102 miliardi di euro per 1.261.000 domande. E che il momento economico non sia dei migliori ce lo dà un dato. Il mondo del vino per la prima volta in 30 anni registra una frenata dell'export con un calo del 3,2% in valore nei primi 7 mesi del 2020, con una storica inversione di tendenza che non ha precedente a causa del terremoto Covid. Lo rileva un'analisi di Coldiretti che ha promosso l'incontro Covid e la sfida del vino Made in Italy. Sono questi dati che potrebbero sembrare settoriali di target specifici, ma che danno l'idea invece, se guardati con un maggiore approfondimento, di quello che è stato e quello che purtroppo è ancora in questo momento la ricaduta economica della pandemia Covid-19. Abbiamo sentito Patuanelli, velocemente andiamo alla vicenda autostrade, perché ieri la ministra delle infrastrutture De Micheli intervenuta in Parlamento, oggi nuova audizione, sempre al centro di queste audizioni le concessioni. Il governo prenderà decisioni a breve, ha detto la De Micheli, sullo sfondo sempre la questione autostrade ed Atlantia, ma è stato ospite di 24 Mattino anche il vice ministro alle infrastrutture Cancelleri, che a 24 Mattino su Radio 24 dice, per quanto riguarda ASPI, Autostrade per l'Italia, o si chiude entro quest'anno o si procede con la revoca. Sentiamo questo passaggio. Guardi, forse per me e per il Movimento 5 Stelle entro stamattina, però a questo punto io credo che entro quest'anno si debba prendere una decisione. O si chiude entro quest'anno questa vicenda, oppure diversamente si procederà alla revoca, perché lo ricordo, è ancora sul tavolo del Presidente del Consiglio quell'atto di revoca, non si è mai estinto e non ha mai perso efficacia, rimane lì dormiente. Beh, il fronte del Movimento 5 Stelle, lo sappiamo, è un fronte compatto su questo tema dalla prima ora, probabilmente una battaglia anche isolata quella dei pentastellati contro autostrade, Atlantia in generale, perché le concessioni fossero riviste, giusto o sbagliato che sia. Molti nel Movimento 5 Stelle parlano di un ritorno totale sotto il controllo della mano pubblica, ma Cancelleri, sempre a 24 Mattino, ricorda, non vogliamo la statalizzazione. Sentiamo. Non verranno rispettati gli accordi sottoscritti a luglio, procederemo con la revoca. La revoca porta al commissariamento della società e alla messa a bando della concessione. Non vogliamo statalizzare, lo Stato fa lo Stato, si mette a disposizione e chiaramente fa anche una trattativa seria attraverso un bando di gara europeo, attraverso tutta una serie di circostanze che devono però garantire manutenzioni, sicurezza e soprattutto il giusto guadagno a chi vuole investire. Queste le parole del vice ministro Cancelleri, intervenuto questa mattina a 24 Mattino su Radio 24 con Simone Spezia. Come ogni settimana proseguiamo il nostro Giro d'Italia al seguito di Imprese Vincenti, il Digital Tour promosso da Intesa San Paolo per valorizzare e promuovere le piccole e medie imprese, un tessuto produttivo variegato e diffuso sui territori. Tra le 4.000 aziende che si sono autocandidate ne sono state selezionate ben 144. Questo Giro d'Italia ha fatto tappa a Cuneo, a seguirlo c'era il nostro Andrea Ferro, sentiamo. In provincia di Cuneo le piccole e medie imprese formano una rete produttiva variegata che attinge linfa dalle tradizioni, in molti casi sviluppate e combinate con le opportunità offerte dalla tecnologia. Nella provincia Granda, la più estesa del Piemonte, tra le più grandi d'Italia, ha fatto tappa il Digital Tour Imprese Vincenti, il Giro d'Italia promosso da Intesa San Paolo per valorizzare le piccole e medie imprese. Si diceva dell'innovazione come elemento di forza dell'economia locale, tanto più in questi tempi incerti. Ne parliamo con Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo. La nostra provincia da sempre ha questi caratteri di profonda tradizione che poi diventano la vera guida dei processi innovativi. C'è una specie di ricerca storica a cui si affianca la tecnologia, che quindi diventa uno strumento attraverso il cui gli elementi della tradizione vengono così attualizzati da renderli adatti alle esigenze del mercato e dei consumatori. E questa, diciamo, la filosofia che riconosce però sempre l'innovazione un ruolo che merita, che è quello poi di acceleratore della crescita, di facilitatore della trasformazione, che corre sullo stesso binario della tecnologia, ma non è sempre soltanto tecnologia. come succede anche in altre aree produttive del paese, e le imprese cuneesi faticano a trovare e formare lavoratori specializzati. Questo davvero credo che sia un paradigma del nostro momento, della nostra società. Da una parte c'è una disoccupazione allarmante, dall'altra parte quasi uno su tre, o nella nostra provincia uno su quattro, troviamo un disallineamento tra quella che è la richiesta e quella che è l'offerta di lavoro. E siccome sappiamo che il capitale umano, assieme alla solidità patrimoniale delle aziende, saranno i nuovi fattori abilitanti, sono i pilastri su cui ovviamente le nostre imprese diventeranno imprese invincibili, ovviamente un occhio su questo bisogna puntarlo. E quindi la grande attenzione che il sistema di formazione deve avere è proprio quella di recepire. Noi non vogliamo mai sostituirci alla didattica, ma di recepire quelle che sono le esigenze del mondo imprenditoriale. Questo farà sì che nella imprevedibilità e nei mutamenti di scenario in cui stiamo andando incontro sempre di più, diventeranno ovviamente gli elementi dell'adattabilità delle nostre imprese. Ora, due testimonianze dirette dal territorio. Con sede a Cavaler Leone, un comune di 700 abitanti, Vanzetti Engineering è l'unica azienda italiana, tra le poche al mondo, specializzata nella progettazione e realizzazione di pompe criogeniche per gas naturale liquefatto, carburante green per tir e navi. Valeria Vanzetti Ghio è l'amministratore delegato. Siamo stati pionieri in Italia per quanto riguarda la costruzione e la realizzazione di stazioni di rifornimento di metano liquido. Col tempo abbiamo sviluppato l'attuale nostro prodotto, quello delle pompe criogeniche, che viene utilizzato nelle applicazioni navali, industriali e automotive. La chiave di volta è stata sicuramente l'intuizione di mio padre di concentrarsi su questo settore, di concentrarsi sempre di più sul prodotto, sulla qualità del prodotto, sulla cura dei dettagli, nel raggiungere un livello qualitativo che ci distingue molto spesso dai nostri concorrenti. E il costante investimento in ricerca e sviluppo, l'apertura di collaborazioni con le università, l'investimento che abbiamo fatto nella nostra nuova sede, nella quale siamo presenti da 4 anni a questa parte. Le prospettive sono interessanti, sicuramente il settore navale è molto orientato alla scelta di questa strategia, ma anche quello del trasporto pesante, perché il metano liquido è un carburante che permette di essere allo stesso tempo economico e pulito. Ora a Torre San Giorgio, dove dal 1987 Bertolotto produce porte e finestre in legno con un occhio di riguardo ai materiali e al design. Partendo da un laboratorio di provincia, nel tempo la spinta verso l'internazionalizzazione ha allargato i mercati. L'amministratore delegato è Claudio Bertolotto. Negli anni lavorando, sempre sodo, credendo molto al valore principale nostro, che è quello della qualità. Noi veniamo dal prodotto e per noi prima di tutto c'è la qualità. Il prodotto deve essere buono, deve essere affidabile. Sono già molti anni che puntiamo sulla scelta e selezione della materia prima. Dobbiamo essere certi di che cosa mettiamo dentro ai prodotti. Filiera tracciata FSC, legno che viene abbattuto ma di coltivazione, ma che viene rimboscato. Abbiamo delle ottime prospettive, diciamo sia di mercato nazionale che di internazionalizzazione del marchio, del prodotto. Stiamo arrivando a quota 70% mercato domestico, 30% mercato internazionale. E questo dunque il nostro appuntamento Imprese Vincenti, il digital tour promosso da Intesa San Paolo, oggi a firma di Andrea Ferro. Noi ci fermiamo per il meteo. Focus Economia. Di nuovo insieme, 17, quasi 34 minuti. Vi ricordo il 349-238-6666 per i vostri sms. Per quanto riguarda WhatsApp abbiamo qualche problema online anche la diretta di questa trasmissione su Facebook. Il nostro primo approfondimento è dedicato alla scuola, lo dicevo in apertura, è questo un settore che ci interessa tutti, indipendentemente dal ruolo che abbiamo nella nostra vita quotidiana rispetto a questo importante istituto nella nostra società. Scuola fortemente influenzata nella sua dinamica da questa seconda ondata di Covid-19, lezioni a distanza o in presenza, non si sa come andrà l'anno scolastico in corso, ma c'è però più di 1,5 milioni di famiglie che si sta guardando intorno per cercare di organizzare invece quello che sarà l'anno scolastico 2021-2022, come scegliere la scuola superiore. Non è una scelta semplice, però si può fare riferimento al portale Eduscopio della Fondazione Agnelli, che oggi pubblica la classifica degli istituti che meglio preparano quindi agli studi universitari o al lavoro. È questo un settore che conosce molto meglio di me la collega Maria Piera Ceci, collega caporedattore di Radio 24, che saluto. Ciao, ciao Vincenzo. Ciao Piera. E, qual è l'aspetto, prendiamola un po' alla larga, sì, questi dati di Eduscopio, qual è l'aspetto più interessante così da proporre all'inizio di questo nostro primo approfondimento? Allora, è sempre molto complicato trarre delle cose generali da questa rilevazione, perché vuole essere proprio un portale di servizio. Inserisci il nome della tua città, inserisci l'indirizzo di studio che più ti interessa e vengono fuori le scuole che sono nel raggio di un chilometraggio che puoi decidere, e a quel punto esamini la classifica. Quindi dati generali sono sempre un pochino complicati da trarre, però qualcosa si può dire. Intanto ci sono due piccole sorprese, in realtà una era già venuta fuori anche l'anno scorso, che le scuole che bocciano di più non sono quelle che preparano meglio all'università, no? Si pensa sempre che le scuole più severe siano quelle che preparino, certo, meglio, invece è un luogo comune che viene smentito anche quest'anno dalla rilevazione della Fondazione Agnelli. E poi c'è il dato sugli istituti tecnici. Per quanto riguarda tecnici e professionali, migliorano i punteggi, cioè le scuole riescono sempre più a inserire i propri studenti nel mondo del lavoro. Siamo al 48% per i tecnici, che sale di quasi un punto percentuale all'indirizzo economico e tecnologico. Chiaramente, Vincenzo, siamo a dati pre-Covid, quindi bisognerà, sì, capire come andrà nei prossimi anni. Cosa vuol dire questo dato? Vuol dire che gli studenti che escono dai tecnici e professionali, in questo caso è una media, poi ogni istituto presenta il suo dato ed è questa la cosa interessante che si può andare ad esaminare, trovano un lavoro a 2 anni dal diploma e tra l'altro un lavoro coerente con l'indirizzo di studio che si è seguito, quindi davvero un dato importante. Ed è questa la particolarità di Eduscopio. Come formula questa classifica? La formula andando a esaminare due aspetti. Per quanto riguarda appunto tecnici e professionali, il placement, quindi la capacità di trovare lavoro in 2 anni, e per quanto riguarda invece licei e tecnici, la performance universitaria, cioè come vanno gli studenti universitari che escono da quel singolo istituto. Chiaramente, come tutte le classifiche, come tutte gli esami, si prende un aspetto in particolare, quindi se ne trascurano molti altri, però è comunque un dato secondo me molto interessante per quanto riguarda anche quest'anno così particolare. Lo dicevi, è davvero un anno complesso, sì, difficile per molto le famiglie, complesso, direi, perché le famiglie sono già confuse di loro. È già una scelta sempre molto complicata quella dei tredicenni, del percorso di studi da seguire, quindi quest'anno, non potendo andare a visitare le scuole, con gli open day tutti virtuali, quindi di nuovo ragazzini piazzati davanti a un computer, non è la stessa cosa che andare a visitare una scuola, come dire, annusare anche un po' così l'atmosfera di quel... Vedere proprio, toccare le aule, vedere un po' l'istituto. Certo, vederlo. E quindi insomma può ragazzi essere un'occasione in più, insomma, per farsi un'idea sulle scuole che si hanno intorno a casa. Per quanto riguarda Milano e Torino, un altro dato che si può trarre un po' generale, sembrano andare meglio anche quest'anno le scuole paritarie, cosa che non succede per esempio a Roma e Napoli. E poi l'altro elemento argomento interessante è che ci sono un sacco di bellissime scuole anche in provincia, anche in luoghi per i quali io ho dovuto andare a vedere che provincia fosse, tanto certo, per intenderci. Certo, ma non lo mettevamo in dubbio, anche se magari è un aspetto un po' più nascosto questo, certo. Esattamente, è pieno di tante bellissime scuole. Io ne ho raggiunte due, se sì. vuoi le facciamo le anche sentiamo sentire. Sicuramente tutte e due, sì. Abbiamo scelto due istituti tecnici perché insomma la sede di Focus mi sembrava un po' quella giusta. Certo. Andiamo prima a Dalmine, in provincia di Bergamo, dove gli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Marconi trovano un lavoro a 2 anni dal diploma con una percentuale dell'84,5%, quindi davvero ragguardevole. E abbiamo chiesto a Maurizio Adamo Chiappa, che è il dirigente scolastico di questa scuola, qual è insomma il motivo di tanto successo, che cosa fa di così speciale. Sentiamo. Probabilmente la cosa più bella che riusciamo a fare è il nostro salone aziendale, dove i ragazzi fanno delle, fra virgolette, simulazioni di colloqui di lavoro con un sacco di aziende, dalle 15 alle 20 simulazioni di colloqui di lavoro, come le chiamiamo noi, al termine dell'anno scolastico, e si presentano al territorio. Praticamente l'ultima settimana di scuola, le due palestre diventano il luogo dove i ragazzi incontrano le aziende che fanno fare loro delle simulazioni di colloqui di lavoro, si presentano con il loro CV e poi da lì nascono dei contatti che magari vanno anche a buon fine. Ed è, diciamo, uno spettacolo, perché tu vedi i ragazzini che hai visto in prima, un po' titubanti, piccolini, che non sanno come muoversi, a ragazzi tutti belli in giacca, in camicia, che si presentano il loro CV, parlano magari anche in inglese. 2 anni fa, quando l'abbiamo fatto, sono venute circa un centinaio di aziende del territorio. Lei teme che insomma questi numeri purtroppo possano scendere? Dalle prime informazioni che ho io sembrerebbe di no, nel senso che le tipologie di attività per cui vengono richiesti, come posso dire, ancora alto. Verificando le mail che arrivano di richieste di persone diplomate, siamo ancora più o meno sui numeri dell'anno scorso. Beh, dunque, mi sembra, da quello che dice Piera, Maurizio Adamo Chiappa dell'Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Dalmine, poi ricordiamo, provincia di Bergamo, una delle province più colpite dalla prima ondata Covid, non ci sono grandissimi timori che questo momento di incrocio tra studenti e aziende quest'anno non possa avvenire? Ti segnalo, tra l'altro, mi scrivono al 349-238-6666, che qualcuno non riesce ad entrare nel portale di Eduscopio. Questo da una parte ci rallegra, perché evidentemente c'è molto interesse, sì, questo aspetto. Quindi ecco... Il preside di Dalmine non si è detto preoccupato, perché no, gli infatti. Arrivano tante mail ancora di richieste eccetera eccetera, e sappiamo che è vero che Bergamo, la Bergamasca, è stata duramente colpita dalla prima ondata di Covid, però è anche vero che è un tessuto produttivo davvero molto ricco, di piccole e medie aziende, che avranno sicuramente tantissime difficoltà, ma che sembrerebbero in questo momento reggere. È di parere leggermente meno ottimistico invece quest'altro preside che abbiamo sentito, Vincenzo Falco, è il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Tecnologico Cerebotani di Lonato del Garda, quindi ci siamo spostati non di tantissimo, siamo nel Bresciano. Qui l'indice di occupabilità sfiora l'82%. Numeri sempre altissimi. Numeri sempre altissimi. In questo caso, e ci fa piacere ricordarlo perché a Focus Economia parliamo tantissimo di ITS, gli istituti, sì, tecnici superiori, ebbene Falco ci conferma che uno dei segreti di questo istituto è proprio nell'ITS. Sentiamolo. L'ITS, biennio superiore, dove abbiamo inserito un percorso di tipo duale, dove i ragazzi di mattina stanno in azienda e di pomeriggio stanno a scuola. Nel senso che i suoi ragazzi, come naturale continuazione del loro percorso di formazione dopo l'istituto tecnico, vanno all'ITS? Vanno all'ITS, dove ci sono dei docenti universitari, esperti delle aziende e una percentuale di docenti della scuola. Voi siete adesso in didattica a distanza, com'è possibile mantenere un livello qualitativo con i laboratori? Adesso, grosso modo, abbiamo nella flessibilità oraria, insistiamo un po' di più sulle materie teoriche, poi ci sarà una ricaduta sulle materie laboratoriali nella fase successiva, sperando che finisca presto, chiaramente. E senta, invece ha paura che questo stop didattico e soprattutto questo stop del paese si ripercuota poi sul livello di occupabilità dei suoi ragazzi? È evidente che ci sarà una maggiore difficoltà. Adesso ci siamo riproposti che fine mese si fa un incontro anche con gli imprenditori, eccetera, perché dobbiamo abituarci, bene o male, ad un diverso modo di far scuola. Ecco, ma lei ha paura che alla conclusione di questo anno davvero terribile anche per le aziende del territorio ci siano meno richieste di lavoro, quindi di suoi studenti? Credo di sì, ho paura. Beh, lo abbiamo sentito, oltre all'ottimismo in provincia di Bergamo c'è comunque anche preoccupazione, e qui era il punto su Brescia. Piera, per chiudere questo nostro spazio, mi sembra comunque, per quanto io non sia informatissimo su questo aspetto dell'ITS, che siano state superate le diffidenze e quei dibattiti contro, che c'erano almeno fino a qualche anno fa, contrari a che gli studenti venissero in contatto con le imprese prima della fine del ciclo scolastico. Sì, un po' sono stati superati, ci sono ancora delle resistenze, ma sono stati sostanzialmente superati. Ricordiamoci il bel esempio dell'alternanza scuola-lavoro, purtroppo dimezzate le ore e anche poi in tempi di Covid quasi azzerate, possiamo dire, però era stata un'esperienza che dalle prime diffidenze in realtà poi aveva visto presidi, insegnanti e anche ragazzi contenti di intraprendere questa esperienza, perché cominciavano un po' a prendere dimestichezza con il mondo del lavoro, non facevano chiaramente delle esperienze lavorative, sì, certo, particolarmente interessanti, però insomma cominciavano a mettere un po' un piede nelle aziende, negli uffici. È stata un'esperienza sicuramente positiva, che purtroppo sta andando scemando e non sono contenti neanche gli stessi ragazzi. Vedremo cosa accadrà nel futuro. Grazie Maria Piera Ceci, collega di Radio 24. Ci fermiamo per le strade in diretta. Focus Economia. Focus Economia di nuovo insieme in studio Vincenzo Miglietta. In questa fase che ci accompagnerà al GR delle 18 parliamo del ruolo delle istituzioni europee nel contrasto alla prima, ma soprattutto a questa seconda ondata di Covid, alle ricadute negative sull'economia europea. Poi parleremo su quanto sta preparando Palazzo Chigi per quanto riguarda la manovra economica. Parliamo dunque della Banca Centrale Europea, ma anche di quanto sta facendo l'Istituto di Francoforte insieme all'altro braccio europeo, che è quello della Commissione Europea. Ne parliamo con la collega corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Isabella Bufacchi, che saluto. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Isabella, dicevamo ieri le parole della numero uno della BCE Lagarde, oggi il bollettino che fotografa l'emergenza economica in Europa da parte sempre della Banca Centrale Europea. Da dove vogliamo partire? Dalle promesse della Lagarde che la BCE aiuterà l'Europa per tutta la pandemia, o vogliamo fotografare questa economia che nel quarto trimestre sicuramente frenerà in maniera molto decisa? Beh, direi che le due cose vanno veramente insieme. Il dato del bollettino economico che a me ha fatto veramente più preoccupare è quello del primo semestre dell'Eurozona, con il PIL che è sceso del 15,1%. Ricordiamolo che questa è una delle più gravi recessioni dalla Seconda Guerra Mondiale, ma è anche, come ha detto ieri Christine Lagarde, una recessione unica, degli aspetti nuovi. I servizi vanno peggio, il settore dei servizi rispetto a altre recessioni più standard, più normali che avevano il settore manifatturiero, che andava male. Anche il mercato del lavoro è stato colpito in maniera dura, ci sono persi 5 milioni di posti di lavoro nell'Eurozona molto velocemente, e poi sono state colpite le persone a basso reddito, i cittadini più a basso reddito, quindi con una disuguaglianza. Cioè ci sono molti aspetti, quindi la gravità e soprattutto direi anche gli aspetti eccezionali di questa crisi sono stati ben recepiti dalla BCE, che ha in campo già degli strumenti straordinari. Non so se lo vogliamo ricordare. Sì, ricordiamoli, certo. Abbiamo già un programma che si chiama programma pandemico per l'emergenza pandemica di acquisti da 1.350 miliardi, è stato tra l'altro già aumentato in corsa dagli iniziali 750 miliardi, e questo è un programma molto flessibile dove la BCE veramente può comprare tutti i titoli che vuole quando vuole. Però ho visto che, appunto, lo menzionavi, l'emergenza pandemica semmai sta peggiorando, il mercato si aspetta che faccia di più, e quindi ci aspettiamo a dicembre che questo programma già così forte verrà aumentato e soprattutto allungato, perché per ora dovrebbe finire nel giugno 2021. C'è un altro aspetto, un altro strumento dei principali strumenti della BCE molto importante, che ha un nome che dirò alla radio, Teltro, ma comunque sono dei prestiti mirati all'economia, e quindi noi abbiamo in Europa le banche che sono il principale canale di finanziamento della nostra economia. Si parla tanto di mercato dei capitali, ma alla fine sono le banche che sostengono imprese e famiglie. Quindi la BCE ha in campo questo strumento particolare. È una liquidità che al momento è stata utilizzata dalle banche europee per 1.300 miliardi, con la possibilità di arrivare a un tasso negativo di meno 1%. Questo ci tengo a dirlo, perché noi abbiamo già i tassi dei depositi, che oramai sono diventati il tasso di riferimento, sì, a meno 0,50, ma questo strumento particolare arriva fino a meno 1%. Ebbene, la Lagarde ha fatto capire, e il consiglio direttivo è già unanime, verrà potenziato anche questo strumento, e nel bollettino economico, appunto, che oggi fotografa una situazione di un rischio di credit crunch, cioè le banche stanno... Certo. E proprio questo ti volevo sottolineare, a parte che lo stavi dicendo da te, sempre sul pezzo come sempre Isabella, ma tu dicevi la BCE va verso la direzione di favorire l'accesso al credito da parte delle famiglie ma anche delle imprese in un quadro internazionale, dice Francoforte, invece da come emerge dall'indagine sul credito bancario nell'area dell'euro di ottobre 2020, nel terzo trimestre di quest'anno le banche hanno inasprito i propri criteri di concessione dei prestiti alle categorie che dicevamo, quindi è più che mai necessario questo intervento di Francoforte. Sì, sicuramente aiuta, però direi che il messaggio di Lagarde è andato un po' oltre a quello che è l'intervento tradizionale, anche con strumenti non standard, diciamo, della banca centrale, e cioè ha dato molta importanza alla supervisione bancaria, sì. E quindi sappiamo che già quando sono stati annunciati, diciamo, i pacchetti della BCE pandemici, c'erano già degli interventi per consentire alle banche di finanziare di più, quindi un po' di allentamento dei requisiti prudenziali. E poi la Lagarde è stata molto chiara nel dire che il pacchetto delle misure, quindi lei l'ha chiamato un policy mix che deve essere vincente, non vede solo la banca centrale, ma le ha dato molta importanza anche alla politica fiscale, agli interventi dei governi, e quindi proprio per favorire le banche a fare il credito, bisogna ricordare che il governo ha fatto già molto con le moratorie, con le garanzie pubbliche. È chiaro che poi quando finirà la pandemia queste garanzie verranno meno, e quindi le banche, anche la vigilanza bancaria, consiglia di valutare sempre il merito di credito e ristrutturare, certo, i prestiti che vanno ristrutturati. Sì, sì. Ecco, però diciamo c'è un insieme di interventi, quindi, che tra l'altro ha detto la Lagarde, si fortificano l'un l'altro, quindi la politica monetaria insieme alla politica fiscale. Gli interventi del governo, per esempio, ho detto molto interessanti, sono molto mirati a chi ha più bisogno di aiuto. E quando il governo fa questi interventi così mirati, il consumatore o la famiglia che viene aiutata ha più fiducia nel futuro, e quindi questo arriva anche a dare più fiducia per l'andamento dei prezzi, dell'economia, dell'inflazione. Quindi è tutto collegato. Tutto collegato, e ricordiamo, Isabella, anche quello che sta facendo la Commissione europea con la sospensione di tutti i vincoli alla spesa dei paesi, la messa in pausa del patto di stabilità, il lancio del recovery fund, quindi Commissione europea, BCE e governi poi dei singoli stati. Probabilmente tutti insieme possono contrastare questa seconda ondata pandemica. Noi siamo a ridosso del GR, ci dobbiamo salutare. Isabella, grazie. Isabella Bufacchi, corrispondente del Sole 24 Ore, al prossimo tuo intervento. Noi ci fermiamo per il GR delle 18. Sai che io ancora esattamente non ho capito. Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito? Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100 Milan. Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni. Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo. Questa è una tua opinione. Sì, certo. Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo. Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100 Milan. Uno, Nessuno, Nessuno, 100 Milan. Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io. Focus Economia. Ripartiamo dai mercati, perché oggi mi sembra, guardando i listini, soprattutto quelli europei, si può parlare di giornata di realizzi. Ma chiedo conferma al collega di Radio Corre, Andrea Fontana. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio, Vincenzo. Quindi, Andrea, giornata di realizzi, comunque ricordiamo, dopo un novembre che per 11 giorni ci ha fatto segnare crescite considerevoli non solo a Milano ma nel resto dell'Eurostox. Assolutamente sì, un novembre che ha abbondantemente recuperato e rimontato quello che era stato invece un ottobre nero per i listini. Milano alla seduta di ieri guadagnava il 15% dall'inizio del mese, spinto come gli altri listini, insomma, dai risultati delle elezioni americane, ma poi soprattutto dai passi avanti sul fronte dei vaccini anti-Covid. Oggi è stata invece una giornata di pausa, una giornata di realizzi, dove l'attenzione si è concentrata principalmente sulle trimestrali a Milano, ma anche sugli altri listini, e sull'attesa degli interventi, delle indicazioni che potranno arrivare dai banchieri centrali, in particolare dalla presidente della BCE, Christine Lagarde, nel forum BCE che si sta svolgendo in questi momenti, e da cui potrebbero emergere delle buone indicazioni, o comunque delle indicazioni che il mercato farà proprie nella finale di seduta di Wall Street e nella seduta di domani. Certamente, quindi sullo sfondo possiamo dire che resta di base sempre la vicenda Covid, comunque la si voglia leggere. I mercati comunque sono sempre timorosi, anche se scommettono sicuramente dopo le notizie di un vaccino che potrebbe non tardare così tanto, poi l'attesa per le decisioni delle banche centrali. Ci sono poi dinamiche invece tutte interne al mercato italiano. Partiamo da Poste Italiane. Sì, Poste Italiane è stata la migliore, oggi ha guadagnato il 3%, il risultato, l'andamento è arrivato in scia ai risultati trimestrali, un risultato del periodo luglio-settembre in crescita di circa il 10% per quanto riguarda l'utile netto, 353 milioni, accompagnato poi dall'annuncio di un acconto sul dividendo, quindi un anticipo sul dividendo che relativo all'esercizio 2020, quello in corso, 0,162 euro per azione, che saranno pagati agli azionisti entro la fine di novembre. Questo ha permesso al mercato, insieme ai conti, di reagire positivamente. Tra l'altro leggevo dichiarazioni dei vertici di Poste Italiane dove comunque ribadiscono anche il loro ruolo sociale nel nostro paese. Ricordiamo la dislocazione puntuale in tantissimi comuni del nostro paese, più di 8.000 comuni, il ruolo sociale comunque che ricopre Poste Italiane, oltre a questi numeri che il collega Andrea Ferro, Andrea Fontana ricordava sotto l'aspetto finanziario. Andrea, abbiamo detto di Poste Italiane, sale anche Nexi. Sì, Nexi è in attesa di questa, del completamento di questa trattativa per acquisire un altro gruppo, un altro grande gruppo dei servizi di pagamento, in particolare del Nord Europa, il gruppo danese Nets. Ieri è stata annunciata che l'esclusiva, il periodo di trattativa in esclusiva verrà prolungato fino a lunedì, fino al 16 di novembre, e il mercato è lì in attesa, insieme ai conti che sono stati pubblicati ieri, è lì in attesa che questa operazione venga formalizzata. Alcuni dettagli erano già stati forniti a inizio novembre, ma si aspetta appunto che venga completata. Quindi Nexi che faccia un doppio salto: a settembre aveva annunciato l'operazione di aggregazione con l'italiana SIA, società anch'essa di infrastrutture e sistemi di pagamento controllata da Cassa Depositi e Prestiti. Nel giro di poco più di un mese, di quasi due mesi, annuncia una nuova aggregazione di dimensioni più importanti e soprattutto di respiro internazionale, e il mercato è lì pronto a premiare questo titolo e questa operazione. Quindi Nexi premiata sulle aspettative di queste operazioni future. Vediamo i titoli per i quali la giornata non è stata certamente esaltante fino a poco fa, e confermami se la chiusura è stata così. Andrea, Pirelli credo fosse il titolo peggiore, perdendo il 6%. Assolutamente, Pirelli alla fine ha perso il 6,5%, una giornata di calo per Pirelli e anche per altri titoli dell'automotive, a cominciare da Fiat Chrysler, ma non solo in Italia, anche all'estero, anche a Parigi con Valeo. Ieri Pirelli ha rilasciato i conti trimestrali, non ci sono state particolari sorprese e il mercato è andato immediatamente a prendere beneficio, anche perché era un titolo che nelle ultime 3-4 sedute aveva guadagnato complessivamente circa il 15%, quindi ci sono stati immediati realizzi, anche perché appunto comunque il settore auto è in un clima comunque impegnativo per i prossimi settimane, per i prossimi mesi, dal punto di vista dell'andamento del mercato, delle vendite, dei volumi di vendita, e quindi diciamo l'euforia ha lasciato spazio, diciamo così, a un realismo e a dei realismi. Quindi momento di realizzi per tutto il settore auto e per i settori interconnessi, quindi come è quello Pirelli. Dicevi, Andrea, del titolo Fiat, anche se Fiat punta su una diversificazione, puntando sempre di più sulla mobilità elettrica. E questa mattina c'è stato questo annuncio importante di una collaborazione con il gruppo francese Engie, e in particolare con la loro divisione che ha in Italia le attività di ricerca e sviluppo, quindi soprattutto con la loro divisione impegnata proprio sui temi della mobilità elettrica e anche dello stoccaggio di energia. Una collaborazione da cui nascerà una nuova società partecipata da entrambe, quindi da Fiat Chrysler e da Engie EPS, proprio finalizzato a trovare nuove opportunità e a sviluppare nuove collaborazioni sul campo della mobilità elettrica, dove Fiat Chrysler è già impegnata, ma dove le opportunità ci sono, e quindi questa alleanza è finalizzata a questo scopo. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Core, per i tuoi aggiornamenti. Ci fermiamo per la viabilità. Focus Economia. Alle 18:18 riprendiamo quest'ultima parte di Focus Economia, che ci porterà fino alla chiusura delle 18:30. Parliamo della politica economica del governo, dopo aver affrontato la politica messa in atto dalle istituzioni europee. Vediamo in concreto invece quanto sta facendo o quanto pensa di fare il governo italiano per affrontare questa seconda ondata pandemica, quanto pensa di fare soprattutto nel 2021, visto che invece con il decreto Ristori bis si è dato già un intervento, poi vedremo se sufficiente o meno rispetto ai primi lockdown settoriali per alcune regioni coinvolte. E quindi facciamo brevemente un punto: dopo due decreti ristori, ricordiamo, il primo dal valore di 6,2 miliardi e il secondo da 2,8 in termini di saldo netto da finanziare, sembra che il governo stia ragionando addirittura su un decreto ristori ter e su un nuovo scostamento di bilancio da 15-20 miliardi, tutte misure che però dovrebbero andare nel 2021. In tutto ciò ci si domanda che fine ha fatto la manovra. Le linee guida sono state presentate a metà ottobre, ma poi nero su bianco non si è avuto nulla di più. Allora chiediamo lumi al collega editorialista del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Buon pomeriggio, Dino. Grazie, buon pomeriggio a voi, Vincenzo. Allora Dino, dobbiamo aspettarci un ristori ter oppure il governo ci darà dei testi della manovra di bilancio, perché siamo comunque a metà novembre? Sì, allora cerchiamo di procedere con ordine per quanto possibile in questo guazzabuglio che è abbastanza inesplicabile. Allora, vediamo prima di tutto la manovra cosiddetta legge di bilancio che è stata approvata a salvo intese il 18 ottobre e, come tu ricordavi, ancora non è approdata in Parlamento. Questo perché evidentemente il governo sta ricalibrando sia gli interventi in termini di misure concrete da mettere in atto per far fronte appunto a questa seconda ondata della pandemia, sia in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica. Questo ha causato un grave rallentamento nella trasmissione dei documenti in Parlamento e credo a memoria, non credo di essere smentito, è il ritardo maggiore che è stato accumulato finora, perché normalmente al 12 di novembre quantomeno la Commissione Bilancio di una dei due rami del Parlamento ha già cominciato a esaminare il testo della manovra, la legge di bilancio, quella che un tempo era la finanziaria, certo, e già le commissioni di merito stanno emettendo i pareri di loro competenza. Quindi il fatto che ci sia questo ritardo sicuramente determinerà una compressione dei tempi di discussione della legge di bilancio, perché sarà una sessione di bilancio molto molto più ristretta, e che fa lascia intendere che probabilmente si concentrerà l'esame alla Camera, quindi anche delle proposte, degli emendamenti eccetera, e che il Senato sostanzialmente non potrà far altro che ratificare il testo della Camera, perché non ci sarà più tempo, si arriverà a ridosso di Natale, le vacanze eccetera. Certo, ricordiamo, scusami Dino se ti interrompo, che di fatto possiamo considerare un mese lavorativo, tolte le varie festività di mezzo, per cui una manovra di bilancio esaminata nei due rami del Parlamento in un mese veramente è una corsa contro il tempo. Sì, anche considerando che questa è una manovra che a ottobre era partita dotata di circa 40 miliardi, di cui 23 miliardi sostanzialmente già pattuiti in deficit con la Commissione europea, e per il resto appunto si aspetta di capire, questo è il secondo binario, sì, come evolverà il dibattito all'interno del governo sul nuovo scostamento di bilancio. C'è una ipotesi che le Camere si possano pronunciare in merito il 25 novembre, quindi una nuova richiesta di deficit, che però, come tu ricordavi, non potrà che avere effetti nel 2021, perché ormai il 2020 è sostanzialmente chiuso. E accanto a questa richiesta di nuovo scostamento dal deficit emerge la necessità di varare un terzo provvedimento, un decreto ristori ter, se così si può chiamare, che dovrebbe spalmare gli interventi non più su un orizzonte ristretto, quale quello tutto il prossimo semestre, almeno fino a giugno del prossimo anno. Per fare ciò occorre una deliberazione del Parlamento e poi bisognerà capire dove andranno in discussione questi tre decreti. Probabilmente andranno in discussione al Senato e quindi si potrebbe creare anche qui l'inedito di una manovra che viene sostanzialmente divisa in due. Una parte è la legge di bilancio vera e propria esaminata dalla Camera, l'altra i decreti legge, tre o due se i primi due vengono accorpati in uno, insomma, questo dovrebbe avvenire, e che verrebbero esaminati dal Senato con o a qualche problema, perché evidentemente le due cose sono strettamente connesse, perché l'una produce effetti che l'altra deve recepire. Quindi insomma è un bel problema, e d'altro canto il governo sta cercando in tutti i modi di far fronte a questo aumento esponenziale della pandemia, e certamente c'è un problema, perché un Parlamento che discute di provvedimenti così importanti, ricordo che la legge di bilancio è il provvedimento principe dell'anno, certo. Sì. È quello in cui vengono allocate tutte le risorse, non solo per la pandemia, ma anche per le persone, tipo una per i contratti pubblici. Ma certo, per tutta la macchina pubblica, certo. La macchina pubblica che deve funzionare, il fondo sanitario, insomma, è una cosa grandissima, rilievo, grandissima importanza, e che tutto questo debba essere compresso in poco tempo non è certamente una buona cosa, ma d'altro canto, come dire, siamo in assoluta emergenza, bisognerebbe garantire comunque che la sovranità del Parlamento sia rispettata. Non venga in nessun modo messa in discussione. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, si diceva si dovrà innanzitutto quantificarlo e poi, qualora fosse poi il suo iter approvato, si dispiegherà nel 2021. Corrisponde a realtà quello che leggevo oggi da qualche parte, che comunque il rimbalzo che c'è stato nel terzo trimestre dell'anno ha portato maggiori risorse che forse non si preventivavano, e quindi in questa ultima parte dell'anno, quindi novembre-dicembre, il governo avrebbe qualche risorsa in più rispetto a quello che si stimava, e quindi non ci sarebbe tutta questa fretta per lo scostamento? Allora, anche qui bisogna distinguere, perché è vero che il rimbalzo, che è stato vigoroso, oltre il 16%, anche oltre le aspettative, ha garantito, però stiamo parlando del terzo trimestre, uscivamo dal lockdown, certo. Ha garantito un rimbalzo molto importante e dunque anche un incremento superiore alle attese per quanto riguarda le entrate tributarie. Ne ha tratto beneficio il deficit, che il governo inizialmente aveva previsto quest'anno attestarsi attorno al 10,8% del PIL, poi in un secondo momento l'ha ridotto allo 0,5%, si è creato quel margine che ha consentito di finanziare senza ricorrere a nuovo indebitamento, quindi diciamo con risorse stanziate ma non ancora spese, i due decreti, il decreto 1 di storia e bis. Questo ovviamente non si può replicare per Storyter e per la manovra, perché ormai quell'effetto benefico in cui facevi riferimento si è esaurito ed è già stato utilizzato. Quindi occorrono nuove coperture, un nuovo deficit, e lo ricordo, questa sarebbe la quinta decisione di scostamento che è stata messa in campo quest'anno, da aprile a oggi. Ad attestare, come dire, la gravità della situazione che stiamo vivendo. Ecco Dino, veramente ti chiedo 30 secondi, come mai è scomparso dal dibattito pubblico il recovery fund? Perché si sa già che sarà una cosa che arriverà tra tanti mesi, o che cosa? 30 secondi. Dunque, è scomparso perché c'è stato, nelle ultime settimane, c'è stato un dibattito molto acceso a livello europeo tra Commissione e Consiglio, che si è sbloccato solo due giorni fa, in base al quale sono state individuate risorse per altri 15 miliardi. Resiste ancora una posizione dell'Ungheria, che ha legato il suo via libera al tema del rispetto dello Stato di diritto, ma il commissario Gentiloni proprio ieri ha detto che lui è molto fiducioso, e in ogni caso lo ricordo, i fondi non affluiranno prima della metà del 2021. Quindi 2021 diviso a metà, dovremo aspettare almeno giugno. Come ci scrivono al 349-238-6666, sosteniamo tutti insieme i dipendenti del settore della ristorazione che sono senza cassa integrazione dal 15 di luglio e noi lo rilanciamo questo appello e lo facciamo nostro. Io ringrazio Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie Dino per questo tuo contributo a chiarire un attimino la tempistica della manovra. Io ringrazio in assistenza al programma Maria Sole Lisciandro e Danilo Di Trani, regia Gianmarco Ferronato. Allora un saluto da Vincenzo Miglietta e vi lascio alla programmazione di Radio 24.